La nostra risposta è nei fatti: noi siamo no business, no competition, tutti i grandi eventi che si svolgono quest'anno, perché proprio il 2024 è un anno di quelli robusti, e sono invece per il business e per la competition, per la competizione, un business ogni tanto sfrenato, che vedrà qua tra una settimana a Bologna anche il Tour de France, che vedrà le Olimpiadi a fine luglio a Parigi e che sta vedendo in questo momento in corso un europeo anche di calcio. Noi siamo abbastanza distanti da quel mondo, semplicemente perché per noi il nostro business sono i diritti, che di solito vengono spesso dimenticati, e la nostra competizione è l'aggregazione, lo stare insieme, la solidarietà e la lotta per difendere i diritti dei diversi. Per questo, insomma, siamo sul pezzo, non siamo un grande evento, ma siamo un evento molto grande. Qual è il programma quindi della vostra 3 giorni? Il programma della nostra 3 giorni è, come al solito, comincia venerdì 21 al Centro Sportivo Bonori nel pomeriggio, ed è un momento in cui ci saranno vari tornei non competitivi di calcio, di basket, di pallavolo, di frisbee, di quidditch e di touch rugby. Si prevedono 130 squadre partecipanti, per cui insomma già in questi giorni ci stanno chiamando altri che vogliono, nonostante abbiamo chiuso le iscrizioni, vogliono comunque partecipare, per cui tanto gioco, non è quasi sport, è uno sport strutturato, per cui tanto gioco, momenti di laboratori importanti, laboratori di samba, laboratori di tamburiata, l'esibizione di danza africana, concerti serali, per cui la grande orchestra Rosichino venerdì sera, e il sabato sera un bel concerto spettacolo con Tarantarte, i gruppi di Taranta. Abbiamo dei momenti anche di dibattito, momenti intensi di dibattito, perché ci sono moltissime organizzazioni che fanno parte del gruppo dei giochi antirazzisti, per cui ci sono testimonianze chiaramente di persone che hanno attraversato, ci hanno impiegato mesi per arrivare fino a qua, insomma, con tutta anche la drammaticità della loro esperienza. Ci sono anche testimonianze di persone che hanno aiutato in mare a salvare queste altre persone. C'è l'esperienza di alcune realtà, tipo la Penny Wharton, che con il suo presidente Eraldo Affinati ci ha lasciato anche un contributo su Facebook e su Instagram, lo potete trovare, che è un contributo anche abbastanza toccante e molto bello. Credo che insomma ci siano tutte le condizioni per fare un festival veramente bello e veramente accogliente. Il range di età di persone che partecipano? Il range è molto variato e variabile, cioè ci sono molti, anche molti bambini, per cui anche molti bambini sotto i 10 anni, c'è sicuramente una parte cospicua di ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35, 40 anni, e poi dopo c'è una parte anche senior, insomma, per cui penso che insomma possiamo dire 0,99? 0,99.